name of this city is a breath of blood. It's a breath of blood. Sarà sangue del tuo sangue, il sangue che tu sento sulla mia pelle. Respirerà scagionando vecchi rancori, mie nuove albe. Sarà rispetto dalla vita ad asciugare, rimarginare, curata e sparita ogni ferita. Che la musica serva a riaprire la mia ragione insana. Solo dischi e rime e soldi per un sogno e per una dama. Sarà l'aurora di ogni felicità, come la mia, anche a rancore nascosto. Sarà sogno tosto a riprendere fisico, voce di fantasmatiche rivelazioni al miracolo del respiro. Sarà come risanata, luogo di luce per ogni anima sola e povera. Sarà dono di musica in ritorno al nostro cuore, denaro respiratore. Take your art up. Take your art up. Sarà sangue del tuo sangue, il sangue che tu sento sulla mia pelle. Respirerà scagionando vecchi rancori, mie nuove albe. Che la mia musica serve a riaprire la mia ragione insana. Solo dischi e rimi e soldi per un sogno e una dama. Sarà carne risanata, luogo di luce per ogni anima sola e povera. Sarà dona di musica in ritorno al nostro cuore, denaro riparatore. Stay up, art. Stay up. Sarà sangue del tuo sangue, il sangue che tu sento sulla mia pelle. Respirerà scagionando vecchi rancori e mie nuove albe. The aim of my music now is a breath of blood. Your blood on my skin, I feel in a fucking fighting music in my ear. It's yours. And this is my breath. This is my breath.